sull'home page di Reporter Associati stamattina un documento, un reportage davvero straordinario di Eva Pedrelli, che è la nostra corrispondente dal Myanmar, dalla martoriata Birmania. Così muore la libertà di stampa in quel paese, abbiamo titolato. Pensate che Reporter Sans Frontières ha definito il Myanmar la più grande prigione per i giornalisti dell'Asia. Nella sua classifica dei paesi con la minore libertà di stampa del mondo, il Myanmar si trova infatti al terzultimo posto. Nessun giornalista straniero può vivere e operare nel paese. Persino l'accesso ad internet è di fatto impedito e persino i motori di ricerca come Google o Hotmail sono sbarrati. Le condizioni di vita dei reporter, degli operatori dell'informazione e dei giornalisti in quel paese sono assolutamente drammatiche. Mi hanno tenuto in una gabbia per cani per 3 mesi, ho passato lunghe settimane in isolamento, la mia dignità di donna è stata calpestata. Così racconta Mau Mau, un nome fittizio, un nome di fantasia, una giornalista di 30 anni che ha incontrato Eva Pedrelli e che per 5 anni è rimasta chiusa nella tragicamente famosa prigione di Insein, una prigione dove i giornalisti vengono persino torturati. Non c'è nulla da fare, il regime non fa un passo indietro e così muore la libertà di stampa in quel paese, in Myanmar, nell'ex Birmania. Roberto Di Nunzio, direttore di Reporter Associati per Amisnet Radio.